io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, eh? Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. Eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 11, tra pochissimo un'occhiata veloce alle prime pagine dei giornali, poi l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Più tardi cominceremo con i nostri approfondimenti. Per prima cosa, ve lo dico subito, questa volta partiamo da una denuncia. A 2 settimane dall'inizio di Expo, è possibile che Expo inizi senza, non senza opere, perché ieri, la notizia di ieri, abbiamo detto, dati ufficiali, mancano ancora quasi 3/4 di opere, devono essere completate, ma senza acqua, perché c'è un contenzioso tra l'Italia e la Svizzera che riguarda il lago Maggiore, il Ticino e i canali, il canale Villorese, che dovrebbe portare l'acqua a Expo. Se questa cosa non verrà risolta, dicono gli esperti, sentiremo il vice direttore del parco del Ticino, rischiamo di cominciare Expo con tutte le vie d'acqua a nutrire il pianeta senza acqua, ed è, insomma, non sarebbe proprio una bellissima figura. Vedremo se davvero è così. Poi sentiremo l'incredibile storia di un signore di Lecce che ha scoperto sotto il suo ristorante un vero e proprio tesoro, un vero e proprio tesoro fatto di antichi ritrovamenti di epoche veramente antiche. Si è guadagnato la prima pagina del New York Times, ha aperto un museo, ma il Ministero dei Beni Culturali non l'ha aiutato a far questo, ha fatto tutto da solo. Lui e la sua famiglia hanno scavato e hanno ritrovato delle cose incredibili. Questo però dopo le 9. Adesso iniziamo con i giornali di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, dicevamo, insomma, sui giornali di oggi quasi ovunque campeggiano le parole di Mario Draghi, il presidente della BCE, sui timori per la Grecia. Questo è un po' il titolo ricorrente dei giornali di oggi. Poi ci sono altre notizie, per esempio la questione degli scioperi dei mezzi di trasporto a Roma, il caos che c'è stato a Roma. E adesso, per esempio, c'è l'intervista al ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che assicura regole più severe sugli scioperi, tregua per Expo. Questo dalla prima pagina del Corriere. C'è anche l'intervista, la vediamo tra poco. Prima però, diciamo, titolo principale sulla Grecia. Atene ora preoccupa Draghi, abbiamo più difese, ma con un'altra crisi saremmo in acque inesplorate. Vediamo come il Sole 24 Ore affronta questo argomento, insomma, di grande eco economica in Europa, e il titolo è questo: Draghi, il destino di Atene nelle mani del suo governo. Tutti vogliamo che la Grecia abbia successo, la risposta sta però nel governo greco, ha detto appunto Draghi, presidente della BCE, dove, parlando ai lavori primaverili del Fondo Monetario Internazionale. Secondo Draghi siamo meglio equipaggiati del 2012, ma, scrive il Sole 24 Ore, rischiamo di finire in acque inesplorate. Poi c'è Tsipras che tratta con Mosca, per che cosa? Per un anticipo da 5 miliardi di euro sui diritti del nuovo gasdotto, e questo potrebbe essere una boccata d'ossigeno proprio per Atene. Ma torniamo su Corriere per questa intervista a Del Rio sul tema degli scioperi del trasporto pubblico locale, anche perché si annuncia un provvedimento del governo nelle prossime settimane. Vediamo di che cosa si tratta. Siamo alla vigilia di 2 eventi che porteranno l'immagine dell'Italia nel mondo, come l'Expo e il Giubileo, dice Del Rio, e tutti, politici, sindacalisti, lavoratori, dobbiamo assumere assumerci la nostra dose di responsabilità verso il sistema paese. Sta dicendo forse di non organizzare scioperi nelle prossime settimane? Risponde Del Rio: nessuno vuol comprimere un diritto sacrosanto dei lavoratori, ma credo sia una questione di sensibilità sociale. Parlerò anche di questo con i sindacati che riceverò presto e volentieri. Ma cambierete le regole degli scioperi nel disegno di legge sul trasporto locale che verrà presentato nelle prossime settimane? Domanda, risponde Del Rio: il tema è sul tavolo, quindi cambiare le regole sugli scioperi ne stiamo discutendo anche con l'autorità di regolamentazione dei trasporti. Non c'è nulla di scritto per ora, fa capire Del Rio, ma è chiaro che servono regole più stringenti. Questo per il tema scioperi. Per il tema invece proprio in sé e per sé, perché insomma, questo sciopero dei trasporti locali fa infuriare ovviamente gli utenti, soprattutto se, come è successo a Roma, inizia 15 minuti prima dell'orario annunciato, anziché le 8.30 alle 8.15 del mattino, mentre si corre per andare in ufficio. Però sotto ci deve essere qualche cosa. Che cosa? Il problema dei fondi, delle risorse, di come si tengono in piedi questi vitali servizi di trasporto locale. E allora Del Rio dice, si annuncia per esempio l'arrivo di vigilantes privati sui mezzi per riscuotere i biglietti, perché sono ancora tanti, troppi, quelli che il biglietto non lo pagano. Quando va bene in Italia l'incasso dei biglietti copre il 30% dei costi aziendali, quando la media europea è il doppio. Ma se i biglietti coprono la metà dei costi di trasporto rispetto all'Europa, però non sarà colpa solo dei portoghesi, la domanda è: dobbiamo aspettarci aumenti delle tariffe? E questo è un altro punto, diciamo, dolente. Risponde Del Rio: il problema non è il prezzo del biglietto, ma l'efficienza delle imprese. Oggi nel settore abbiamo troppe imprese con bacini di utenza troppo piccoli. In tutto in Italia ce ne sono più di 150. Il nostro obiettivo è arrivare a 40-50. E anche questa è una cosa che abbiamo sentito dire mille volte, ma vedremo. Insomma, si annunciano quindi fusioni tra imprese del trasporto locale, dice Del Rio, anche con incentivi fiscali che il governo metterà a disposizione. Andiamo su un altro giornale, Repubblica, fotonotizia sui due campi di calcio protagonisti questo weekend di follia, ma nemmeno, perché ormai è una follia che ricorre, ritorna. Tifo violento, devastato lo stadio a Varese, aggrediti i giocatori del Cagliari. È successo che 24 ore che venerdì sera un gruppo di ultra ha aggredito in ritiro i giocatori e staff del Cagliari. Lo sapete, ieri invece a Varese è stato devastato il campo da gioco. E andiamo avanti così. Però Repubblica ha un'intervista alla madre alla moglie dell'uomo fuggito col neonato di 15 giorni in Spagna, poi ritrovato. Stavano tutte e due bene, per fortuna la storia è finita bene, ma che cosa c'era dietro? Mio marito è malato, ha rapito nostro figlio, ma lo amo e si è scusato. Una storia, devo dire, toccante, perché questa donna, che pure si è vista sottrarre il figlio di 15 giorni, non ha esitato a perdonare il marito, anzi è andata a recuperare il figlio, a recuperare anche il marito. E sentite con che parole lo definisce: una persona molto intelligente, simpatica, generosa di cuore, ma non accetta il suo male. L'uomo, Enzo Costanza, impiegato torinese, affetto da problemi psichici. Qual è la storia? È questa. Dice la signora Stefania Ciasullo: è capitato nella sua vita che ha avuto questo problema, l'abbiamo affrontato, ma lui non ha accettato fino in fondo. A un certo punto ha smesso di prendere le medicine, ed è questo il punto, almeno a quello che racconta la signora. Quando ha interrotto le cure, avete parlato, io ero ricoverata in ospedale in una fase difficile della gravidanza. È stato anche quello che ha reso tutto più difficile. Quando sono a casa è più facile affrontare questi problemi, tenere le cose sotto controllo. Evidentemente lei, insomma, lo aiutava a prendere queste medicine, eccetera. Durante i giorni della gravidanza, i giorni difficili, l'uomo è rimasto da solo e qualcosa è scattato. Sentite, dice: è successo questo. Una volta rientrata a casa dopo il parto, insieme agli altri familiari abbiamo provato a convincerlo a riprendere le medicine. Abbiamo visto che lui era un po' scosso, un po' infastidito dalla discussione, si è allontanato dicendo: vado a farmi una passeggiata per schiarirmi le idee. E invece ha preso il figlio ed è scappato via in Spagna. Ma il figlio non ha fatto mancare niente, è riuscito a nutrirlo. Poi, ripeto, sono stati ritrovati dall'autorità spagnola e tutto è finito bene. Ma questo problema, dice la signora Ciasullo, non ha retto i ritmi di lavoro, di studio. 9 anni fa è scattato qualcosa, cominciato le cure, con le pastiglie ha potuto avere una vita sociale e lavorativa più che normale. Poi il problema quando ha smesso di prendere queste medicine. Una storia, ripeto, che abbiamo seguito, credo, tutti, abbastanza toccante. La Stampa invece ci dà un'altra notizia, due notizie anzi. Riforma del fisco, aiuti a chi sceglie la fattura digitale, ed è quello che si annuncia con un prossimo provvedimento del governo in settimana, i decreti fiscali. Il provvedimento che interessa il più alto numero di commercianti e imprenditori è quello che prevede appunto aiuti per chi sceglierà di utilizzare la fattura digitale. L'altra notizia invece riguarda il fronte ISIS, Libia, quindi anche indirettamente il tema degli sbarchi in Italia. Azioni americane anche in Libia per proteggere l'Italia, è un virgolettato che viene fuori, secondo la Stampa, da alcune dichiarazioni di un comandante americano in un report a Obama. C'è stata la visita di Renzi a Obama. Obama non è che si sia sbilanciato molto a parole su un intervento per quanto riguarda la situazione in Libia, però il retroscena della Stampa è questo. Sentite, i membri della coalizione anti-ISIS dovrebbero prestare più attenzione alle preoccupazioni dei partner che hanno i terroristi davanti alla loro faccia. È il virgolettato attribuito a John Allen, comandante generale americano, durante una videoconferenza con gli alleati nella lotta allo Stato Islamico avvenuta il 31 marzo scorso. L'inviato presidenziale per l'ISIS aveva in mente l'Italia, e le sue parole dimostrano nello stesso tempo l'attenzione di Washington per i timori di Roma e anche la distrazione degli alleati degli altri paesi europei. Una chiave che aiuta a comprendere l'appoggio che Barack Obama ha garantito a Renzi sulla Libia durante il vertice di venerdì alla Casa Bianca. La lotta all'ISIS è appunto affidata a questo americano, comandante Allen, che fa capire che non bisogna lasciare soli i paesi del Mediterraneo, soprattutto l'Italia. Sono le 8:47, c'è il traffico, ci fermiamo allora per una breve pausa e torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizio. Ancora un paio di titoli velocemente per vedere di cosa si occupano anche gli altri giornali. Il giornale appunto titola così: l'università islamica abusiva, invasione senza fine, i permessi non ci sono ancora, ma a Lecce apre il primo ateneo per imam. La notizia l'avevamo data anche noi di Si può fare, intervistando l'imprenditore pugliese, leccese, che vuole aprire l'università islamica a Lecce. In sé per sé è una notizia, secondo me, anche una buona notizia, perché così come esiste un'università cattolica per esempio a Milano, non c'è niente di strano che possa nascere un'università islamica, anzi un elemento per favorire l'integrazione anche culturale nel nostro paese e la conoscenza reciproca. Il fatto però, secondo il giornale, è che questo imprenditore non avrebbe ancora i permessi in regola. In effetti non c'è ancora autorizzazione del Ministero del MIUR, del Ministero dell'Istruzione dell'Università, però starebbero iniziando i lavori per appunto la nascita dell'Università Islamica a Lecce. Il Secolo XIX invece, sondaggio PD, il giornale di Genova, Paita, la candidata inquisita di Renzi, 5 punti avanti. Il PD respira, il sondaggio realizzato dalla SVG non appena Raffaella Paita è stata indagata per l'alluvione di Genova, dà alla candidata renziana 5 punti di vantaggio su Giovanni Toti del centro-destra. Adesso è il momento di salutare il curatore responsabile, il direttore del domenicale Inserto Culturale del Sole 24 Ore, Armando Massarenti. Ciao Armando, buona domenica. Ciao, buona domenica. Eccoci qua. Oggi dove ci porti, Armando? Ma dunque, insomma, cerchiamo di anticipare di qualche giorno le celebrazioni del settantennale della liberazione, della resistenza. Quindi ci sono parecchie pagine dedicate a questo. Intanto la copertina con Emilio Gentile, che è uno degli storici più importanti di quel periodo, nostro collaboratore da molti anni, e il titolo Le divisioni della resistenza è un titolo un po' a doppio senso, a doppio effetto, cioè le divisioni nel senso delle varie forze che contribuirono alla Resistenza, ma anche il fatto che la Resistenza si frammentò abbastanza presto come mito, ed Emilio Gentile ci racconta proprio questo, insomma, della fragilità di questo mito fondatore della nostra nazione, del perché a un certo punto, se è vero che il primo anniversario del 1946 fu celebrato da tutte queste forze, è vero anche che poi subito dopo questa unità si frantumò ed ognuna volle costruirsi un proprio mito, per cui i comunisti andavano da una parte, i democristiani dall'altra e le altre forze ancora minori ancora in altre direzioni ancora. Ecco, una riflessione da fare è molto attuale anche per riflettere sul senso che abbiamo della unità culturale del nostro paese e del carattere fondativo. Prepariamoci a questo dibattito che questa settimana ovviamente ci sarà. Esatto. Ci sono poi due pagine interne che raccontano varie storie, e soprattutto vorrei ricordare che Giulio Vassalli era nato nel 1915, quindi c'è il centenario che noi quindi gli dedichiamo un bel ritratto da parte di Sabino Castese, che ne sottolinea le qualità del giurista, e poi Paola Severini, che parla soprattutto dell'impegno sociale, che è una cosa meno conosciuta. Poi ci sono altre cose, insomma, c'è, sapete, Angelo Del Boca ha scritto un libro, un diario molto bello. Angelo Del Boca è uno storico molto importante, che adesso ha 90 anni e che aveva per primo dimostrato che i gas furono usati dagli italiani, ed era riuscito addirittura a sbugiardare Montanelli, che aveva ammesso l'errore. E qui c'è un diario di cui parla Raffaele Liucci. Poi abbiamo una storia molto, molto toccante di una compagna, nel senso che una comunista, Ada Buffolini, e ce ne parla Sergio Luzzatto. Insomma, tante storie. Poi Goffredo Fofi, che ci parla della scuola del centro educativo italo-svizzero di Rimini, che è un'altra storia molto importante, molto interessante, dell'immediato dopoguerra. Insomma, pagine molto ricche, ma soprattutto dal punto di vista letterario abbiamo nelle pagine di letteratura la nuova edizione, anzi la ricostruzione del partigiano Johnny, così come è stato pensato fin dall'inizio da Beppe Fenoglio. E la ricostruzione l'ha fatta un nostro collaboratore, Gabriele Pedulà, che esce con un volume che si chiama Il libro di Johnny, come dire, il libro grosso delle storie del partigiano Johnny, che si presenta come una grandissima novità letteraria, un nuovo grande classico che tutti dovremo leggere, perché è una rilettura completa, diversa, di un grande classico della nostra letteratura. Nella stessa pagina vedo che ci sono anche ricordi relativamente a Galeano e a Günter Grass. Sì, abbiamo avuto queste due perdite molto gravi dal punto di vista letterario. Devo dire anche questo bell'articolo che ha fatto Casalegno su Günter Grass, e anche Andrea Casalegno, che è stato per molto tempo nostro collega al Sole 24 Ore, che è anche un bravo, bravissimo traduttore dal tedesco e germanista, qui fa un bel ritratto di Günter Grass mostrando proprio l'importanza di questo intellettuale in un paese. Il titolo è Il paese che volle crescere, c'è un po' un'allusione al fatto che l'Italia invece non ha voluto crescere, almeno in questo senso, nel fare i conti con il proprio passato, il passato appena precedente. Qui siamo ancora quindi su temi esistenziali o post seconda guerra mondiale. Ancora un minuto per qualcos'altro, Armando, perché come sempre il domenicale è ultra ricco di storie. Sì, guarda, io a questo minuto lo voglio ricordare, se vogliamo, la nostra concorrenza, la lettura del Corriere, che ci dedica implicitamente un articolo, perché parla molto diffusamente di Carlo Rovelli, che il cui best seller oramai veramente quasi imbarazzante, nel senso che da molte settimane è primo in classifica in assoluto, e parla di fisica, 7 brevi lezioni di fisica, che erano le lezioni di fisica che noi avevamo pubblicato appunto sulla Domenica, ed è diventato un caso editoriale assolutamente importante, e che continua ad avere questo successo strepitoso, di cui siamo molto contenti, perché dimostra quanta voglia di leggere ci sia di cose anche impegnative e appunto che riguardano così come è fatto il nostro mondo, come bene. Oggi sottolineato. Grazie. Quindi, mille. Buona domenica a tutti. Certo. Buona domenica. Ciao Armando Massalenti, a domenica prossima con il domenicale naturalmente, per tutto il resto lo trovate ovviamente in edicola. Noi invece siamo qua, tra poco c'è il giornale radio, poi torniamo noi con Si può fare e anche con i vostri interventi in diretta, cari ascoltatori, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno ad Alessio Maurizi. Breve incursione tra il giornale radio e le informazioni sul traffico. Incursione di Si può fare, torniamo in diretta tra pochissimo. Vi ricordo che cerchiamo un personaggio della settimana, vogliamo giocare con voi all'800 24 00 24 e il premio che abbiamo messo a disposizione questa domenica è un weekend presso l'Holiday Inn Express di Parma, un premio messo a disposizione dall'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, con la quale stiamo collaborando in queste settimane in occasione del premio nazionale, il bando nazionale del premio dei comuni virtuosi. 800 24 00 24, potete chiamare per intervenire in diretta tra poco, tra pochissimo, il primo indizio, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua cari ascoltatori, oggi Milano Monterosa com'è? Sole. Bellissimo, c'è il bello. Sole, è la quiete dopo la grandine direi. Però è freschino, è molto freschino. Sì, si è abbassata molto la temperatura. Stamattina mi ha ricordato quando uscivo la mattina presto per andare a scuola, nei mesi di giugno o di settembre, quando avevi messo via tutti i vestiti invernali, avevi solo le cose estive, pantaloncini corti, uscivi però faceva quella mattinata freddina e ti si ghiacciavano i piedi. Vero, a me mi è venuto in mente quando venivo in radio ed era febbraio, ecco, due mesi fa, invece ormai pensavamo di averla sfangata, perché questo va detto, venire in radio la mattina prestissimo quando c'è il sole è bellissimo, tra quando si gela è brutto, sì, tra ti dici che brutto lavoro che sto facendo. La grandinata di ieri ha gelato anche questa, sì, il sangue nelle vene a tutti i visitatori del fuorisalone. Milano in questi giorni è splendida per tutte le attività satellite che ci sono, chiaramente una pioggia così ha messo mi è piaciuto molto tutto. Perché io ero a Parma alla presentazione del libro e me l'hanno raccontato appena sono tornato, sì. E mi sarebbe piaciuto esserci perché è un po' un classico del Salone del Mobile, eh. La pioggerellina, sarà che come, o pioggerellone. Essendo uno di esterni, noi abbiamo spesso organizzato cose al Salone del Mobile ed era un grande classico che poi arrivava improvvisamente, la gelata d'aprile, e sì. Soprattutto la questione dell'abbassamento della temperatura, che è bellissimo da vedere durante il Salone del Mobile, perché tutti escono con le magliettine per andare alla settimana del Salone del Mobile e improvvisamente la gelata, credo che ci siano stati dei morti probabilmente in giro per la città, o sicuramente dei raffreddati, gente scalza che nuotava in mezzo alla grandine. 800 24 00 24 cari ascoltatori, vi aspettiamo in diretta per giocare con noi tra poco il primo indizio per il personaggio della settimana, ma anche per affrontare insieme a noi la prima storia. Beh, insomma, voi sapete, noi abbiamo un approccio possibilmente ottimista alle cose, insomma ottimista, cerchiamo di vedere anche il bello del mondo che ci circonda. Stavolta però partiamo da una specie di denuncia: a due settimane dall'inizio di Expo sappiamo che Expo rischia di finire a secco d'acqua quest'estate. Nutrire il pianeta, i navigli, i canali eccetera, le vie d'acqua, però nutrire il pianeta senza acqua. Quindi con la birra, credo che voglia dire, potrebbe essere questo il messaggio di sottofondo. Sentiremo il vicepresidente del Parco del Ticino con delega alle acque, che appunto ci spiega come e perché questo accordo tra Italia e Svizzera che c'è o che non c'è rischia di mettere in discussione discussione i livelli dell'acqua nel Lago Maggiore, via via tutti i canali e appunto ha scritto Stella in settimana sul Corriere: Expo potrebbe essere a secco d'acqua. Che tra l'altro è interessantissimo anche per la questione del Lago Maggiore, che essendo un lago che per un pezzo è anche svizzero, quindi io non sapevo che l'altezza del lago viene regolata da accordi fra Italia e Svizzera, per dire non è che potete farla troppo alta, sennò ci mangiate le spiagge, non potete farla troppo bassa, sennò poi non c'è acqua. Gira e rigira, c'è sempre di mezzo la Svizzera, quando abbiamo qualche problema in Italia. 800 24 00 24, questo è il primo argomento di cui ci occuperemo, però adesso diamolo il primo indizio. State lo devo dare adesso. Io il primo indizio, sì, tocca sempre a me. Allora, il personaggio della settimana che andiamo ovviamente cercando, questa è una gamba tesa, un colpo basso, tocca a me, non per quel ma motivo. Ma non per anzianità, tu sei giovanissimo, è per anzianità di conduzione, servizio, giusto. Io sono lo stagista. Allora, il personaggio è un personaggio che è famoso in tutto il mondo. 800 24 00 24, vai, chiamate. Iniziamo. Nell'acqua, il motivo l'avete capito, perché parliamo proprio dei livelli dell'acqua nel Lago Maggiore e dell'impatto che potrebbe avere questo per Expo. Prima però c'è una notizia, è un flash d'agenzia uscito poco fa, c'è stato un naufragio nel canale di Sicilia e l'ANSA dice che ci sarebbero centinaia, forse 700 vittime. È una notizia veramente terribile, insomma, vedremo di approfondirla, speriamo che non sia proprio così. Il giornale radio in ogni caso è a disposizione tra pochissimo per dare degli aggiornamenti su questo. Io voglio dare il buongiorno e la buona domenica intanto al vicepresidente del Parco del Ticino con delega alle acque, Luca Duse. Buongiorno Luigi, ma va bene lo stesso. Mi scusi, qua ogni tanto qualche sbavatura anche la redazione la fa, è Luigi Duse. È sicuramente colpa mia che sono lo stagista dei due. Sì, certo. Senta, con lei vogliamo appunto affrontare questo argomento, l'abbiamo annunciato. Qualcuno dice, ma voi siete tra questi, attenzione, perché se non cambiano le cose, è una vicenda anche un po' tecnica, difficile forse da raccontare fin nei dettagli, che riguarda il livello dell'acqua nel Lago Maggiore, l'accordo tra l'Italia e la Svizzera, però attenzione, perché quest'anno Expo ha bisogno di acqua, perché il sito di Expo prevede che ci sia una serie di affluenti d'acqua, i canali, le vie d'acqua eccetera eccetera, che arriveranno proprio sul sito, quindi ci sarà bisogno di più acqua e invece quest'acqua a disposizione in più rischia proprio di non esserci. Ci spiega perché c'è questo allarme secondo lei? Guardi, è molto semplice, tento di renderla un pochettino più chiara. Sì. Pensi a una tavola. Fino all'anno scorso a questa tavola sedevano quattro persone e c'era un litro d'acqua e ognuno beveva. L'anno scorso improvvisamente decidono che il litro diventa mezzo litro e tutti fanno una fatica impressionante e hanno paura di rimanere a secco. Ecco, quest'anno a quella tavola sono in sei e c'è mezzo litro. Direi che spiegata così, così è perfetta, l'ho capita io, quindi è proprio ecco. a prova solo di che stupido. Poi non si può riempire quando l'acqua è finita, non è che si può riempire a tavola, si può mettere, e invece nel lago Maggiore no, perché finite le nevi, che adesso si stanno sciogliendo con i caldi sì. di questi giorni, finite le nevi, quando l'acqua è vuoto Allora, succede, forse sì. va spiegato il fatto che si sciolgono le nevi, vanno nel lago Maggiore, se si tiene più alto il livello medio durante l'inverno, poi d'estate se si ha mezzo metro di acqua in più su tutta la superficie del lago Maggiore, quella è un'enorme quantità d'acqua che poi si può usare d'estate, giusto? Esatto, si hanno 100 milioni di metri cubi d'acqua in più, che è un numerino che qualcuno già capisce, cioè certo. 100 milioni di metri cubi in più sono tanti, mezzo metro che è nulla, sono in realtà 100 milioni di metri cubi in più. Ecco. È un po' come i boccioni nel nostro bel meridione. Adesso, ecco. adesso ci dirà no. anche perché si è creata questa situazione e perché il ministro dell'Ambiente Galletti potrebbe intervenire su questo. Anzi, tra l'altro, noi abbiamo fatto una domanda, il nostro collega Nicola Scevola ha intercettato Galletti 2 giorni fa a Expo, gli ha fatto la domanda. Adesso sentiremo che cosa ha risposto e poi lei ci commenterà. Però vogliamo intanto ricordare chi sono i commensali attorno a questo tavolo, perché l'acqua non è soltanto, non serve soltanto a Expo, ma serve anche ad altri importanti operatori, diciamo agricoltori e ad altre situazioni, e quindi rischia di essere anche una guerra tra chi? Una guerra che può diventare tra poveri in questo momento. Allora, intanto quelli che tuteliamo noi in prima persona è il fiume, la biodiversità, il Ticino è un patrimonio mabunesco della biodiversità. Quindi ecco il parco. Perfetto. Gli agricoltori del parco e fuori parco, perché stiamo parlando di 7.000 aziende agricole della più grande risaia d'Europa, il Vercellese, il Pavese, perfetto. Il Novarese, che prende l'acqua dal Ticino, non dal lago, dal Ticino. E poi stiamo parlando ovviamente di 6 centrali idroelettriche, di una perfetto. Centrale termoelettrica, stiamo parlando di tante cose che comunque ogni anno hanno combattuto col problema dell'acqua, che ultimamente avevano trovato un accordo fra loro, un accordo che era soddisfacente, che impediva che loro stessi litigassero, e improvvisamente dall'anno scorso si rischia di creare la guerra fra poveri. Quest'anno in più si aggiunge Expo, che è un bel po', nel senso che sono 3 metri cubi al minuto, sì. che uno dice ma è poco. Certo, però 3 metri cubi al minuto per 6 mesi, uno fa il conto e capisce che non sono poco. Ma al secondo, tra l'altro, io avevo letto, o sbaglio? Sì, sì, ha detto così. Ma... Sì, al secondo, scusi, al secondo. Ah, no, è un numero pazzesco. No, al secondo, sono no, ma non si preoccupi, non c'è problema. È mattina. quindi, diciamo, ecco, questo consumo di acqua previsto per Expo, tra l'altro, cioè, su quello... Credo che sarebbe davvero fare una figuraccia, cioè nel senso non è possibile. No, ma voglio fare, cioè io vorrei un pochettino riportare un po'. Sì. Anche dirlo con ironia, nutrire il pianeta, questo è il tema. Sì. Cioè il tema è la salvaguardia e l'idea di una nuova agricoltura che sia più, come dire, che nutrisca il pianeta, che sia nuova e che dia una capacità di crescita. Ecco, perfetto. Cosa succede? Che perché qualcuno non vuole regolare, come era già regolato fino all'anno scorso, in modo tranquillo, e fare un po' di riserva, ecco, succede che vanno in crisi le più grandi risaie d'Europa. Sì. Per dare però adesso lei ci deve dire come mai succede. Ci deve dire di chi è secondo lei la responsabilità, perché se no, almeno dal la suo punto di vista. Sì? No, guardi, la responsabilità noi abbiamo citato in giudizio il Ministero dell'Ambiente. Ecco, perfetto. Proprio, mi faccia sentire a lei, agli ascoltatori, cosa ha detto Galletti. Poi ci spiega perché, secondo lei, è il Ministero dell'Ambiente che ha responsabilità e dovrebbe intervenire. Vai con Galletti. Come si sta occupando e svolgendo la questione dei livelli delle acque del Ticino in vista di Expo? Tengo a precisare intanto che già l'anno scorso noi abbiamo avuto un'altezza del Ticino per un accordo raggiunto con la Svizzera di 1,25 m. C'è stata una conferenza dei servizi ieri l'altro che è aggiornata alla prossima settimana proprio per reiterare questa decisione anche per il futuro. Dal parte del mio ministero non c'è nessun ostacolo anche a elevare l'altezza del Ticino fino al 1,50 m. Noi l'abbiamo detto alla conferenza dei servizi, aspettiamo l'esito della conferenza dei servizi, ma già 1,25 m è un grandissimo passo avanti rispetto al passato. Eccolo qua, questo è il ministro Galletti. Da quel che ho capito, questa possibilità di elevare l'acqua nel Lago Maggiore da 1,25 a 1,5 metri, se non ci sbrighiamo, tra un po' che arriva l'estate o comunque non c'è più la possibilità che il livello dell'acqua risalga, quindi rischia di, come dire, di vanificarsi questa cosa che ha detto Galletti. Però faccio commentare a lei, Duse, vicepresidente, lo ricordo, del Parco del Ticino. Breaking news. Breaking news. Sì, arrivano, ahimè, le prime conferme della notizia che abbiamo dato poco fa, un nuovo naufragio nel canale di Sicilia, un peschereccio che si è capovolto la scorsa notte a circa 60 miglia a nord della Libia. Un mercantile dirottato nella zona ha recuperato 28 superstiti. Erano centinaia le persone a bordo del peschereccio. Si teme che il bilancio del naufragio sia di poco meno di 700 vittime. Queste alle prime notizie, le prime conferme, dicevamo, dal mercantile dirottato in zona. Vi daremo aggiornamenti appena possibile. Eccoci qua, allora, queste purtroppo sono notizie, l'avevamo detto, che speravamo non fossero confermate, invece le conferme stanno arrivando. Se ci saranno gli altri aggiornamenti, ai colleghi del giornale radio diamo lo spazio naturalmente per darli, se no l'appuntamento è col giornale radio delle 10. Duse, riprendiamo il filo del discorso, le stavo chiedendo di commentare come, diciamo, Galletti, il ministro dell'ambiente Galletti, ha dato la sua spiegazione su questa situazione. Ma guardi, io ho incontrato Galletti l'anno scorso, il 23 luglio, proprio su questo argomento, perché tutto parte dall'anno scorso. Hanno deciso di portare il famoso 1 metro l'anno scorso a giugno. Prima era 1,5 metri, fino a 1,5 metri eravamo tutti molto tranquilli, poi a giugno hanno deciso di fare questa cosa. Sì. Quindi non è un grande risultato, anche questa idea di portare a 1,25 sì. È una cosa che non è, come dire, è un'italianata. Cioè, che senso ha? Se 1,50 dà una garanzia. Se prendere l'aspirina dà la garanzia di stare tranquilli per un sì, po'. Sì, ho capito, lei dice perché stare sotto, perché ma perché c'è la Svizzera, non è la Svizzera che ha posto questa questione. No, ma la Svizzera è tranquilla ormai, Ma io quello che non capisco è che interesse avrebbe il Ministero a decidere 1,25 m invece di quello che secondo lei è necessario, cioè 1,5 m? Allora, come lei che, come dire, magari non è molto abituato al linguaggio della politica, ha sentito il ministro. Sì. Per quanto riguarda il nostro ministero può andare anche a 1,50. Ecco, questo vuol dire che per quanto riguarda qualcun altro non può andare. Io non ho capito chi. E francamente certo. Non mi interessa. Io sono interessato agli agricoltori, alle RISAI, sì. All'Expo. No, ma però, mi interessa per capire. Però mi scusi, lo so io a chi invece non interessa arrivare a 1,50. È proprio alla Svizzera. È questo. È la questione delle spiagge? È questo guardi, il punto. Guardi. Perché no, se non ci fosse una controparte, allora non ci sarebbe il problema, sì, come diceva Carlo. Dal punto di vista legale non può accampare nessun diritto, perché la diga è interessante. Ecco, questo è interessante, sì. No, e la famosa convenzione, sì, a cui si sono appellati, sì, l'anno scorso, e adesso non si appellano più perché lo sanno. La convenzione che risale a molto indietro. Al 1940. Esatto. Ecco, è scaduta e soprattutto è una convenzione che era un regio decreto, ancora, per la costruzione della diga, che riguardava la costruzione della diga, che riguardava un mondo diverso, cioè dal 1940 ad oggi, hai idea di quante? Ma quindi adesso no, è chiarissimo, quindi persone. Adesso non c'è nessun tipo d'accordo e l'Italia può fare quello che vuole sul il livello del Lago Maggiore? L'Italia può fare quello che vuole, tra parentesi, fatto per 6 anni non ci sono stati problemi, perché neanche per gli svizzeri ci sono stati problemi. La legge dice che non si può costruire e avere, come dire, infrastrutture fino a 1,80 m. Quindi vuol dire che ci sono ancora 30 centimetri, se arriva a 1,50 m, che non danno problemi, sì, ipoteticamente. Anzi, chi va certo, sotto, sì, è fuori legge. Ecco. Sì. Evidentemente a qualcuno ha dato fastidio però questo fatto di 1,5 m. Evidentemente sì, non riusciamo a capire proprio la razza di tutto ciò. Ci sembra che sia un po' un incapponimento di qualche burocrate che non sopporta che le sue decisioni vengano prese, mm-hmm, e poi che ci sia qualche cosa che sfugge. Noi che siamo talmente detto. Convinti. Soprattutto che... la questione che insomma si sono posti i giornalisti, Gian Antonio Stella, che ha riaperto questa questione sul Corriere in settimana, è questa, cioè proprio quest'anno che c'è Expo, un accordo o una presa di posizione insomma un pochino più netta da parte dell'Italia, anche come dire, se c'è da trovare un accordo con la Svizzera ci dovrebbe essere, perché sarebbe paradossale, certo, che proprio quest'anno, che che c'è maggior bisogno, come ha spiegato lei benissimo, c'è un commensale in più alla tavola, diciamo, dell'acqua quest'anno, che non si trovasse questo accordo. Quindi speriamo invece che questo accada. Stando così le cose, del vostro osservatorio importante del Parco del Ticino, come finisce la cosa? Come va a finire? Siamo preoccupatissimi, l'acqua adesso sta scorrendo tutta verso il Po e verso l'Adriatico, non stiamo immagazzinando niente, e se ci sono ancora un po' di giorni di caldo, a parte la grandinata sì. di ieri, noi siamo, come dire, a secco, e poi indietro non si torna. Speriamo che non vada a finire così, però l'allarme no, è questo, tutti. L'abbiamo detto. Grazie, grazie Luigi Duse, vicepresidente del Parco del Ticino. Speriamo soprattutto di non dover aspettare un Expo che si chiama dissetare il pianeta invece di nutrire il pianeta. No, anche perché se dobbiamo nutrire il pianeta e poi scopriamo che non riusciamo a nutrire d'acqua nemmeno il sito dell'Expo, insomma, diciamo, come paese non facciamo una bella figura. Però bisognava dirla questa cosa, bisognava raccontarla. Giusto, noi non siamo Expo pessimisti, diciamo, perché sappiamo che ci ascoltano gli Expo ottimisti. Se cerchiamo di essere Expo obiettivi, mettiamola così. Ci piacerebbe che dell'acqua ci fosse a tavola. 800 24 00 24, torniamo tra pochi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Abbiamo Lorella che ci chiama da Sondrio all'800 24 00 24. Buongiorno Lorella, voleva intervenire. Buongiorno. Su che cosa? Niente, sul personaggio. Ah, ottimo, benissimo. Buongiorno, ci dica. Chi è secondo buongiorno. Lei? Secondo me è Matteo Renzi. Mm-hmm. Perché? Per il suo inglese da terza media. Quindi la notizia è il fatto che ha scritto quel famoso bigliettino a Obama sul libro, scrivendo government, dimenticandosi una N, giusto? Sì, però sì. Quello è un errore veniale, insomma, nella sì. No, più grammaticale che veniale, sì. Direi. Sì, beh, grammaticale. Ortografico, anzi, però chiedo dai, scusa. Un errore che può capitare. Sì, sì, più sì. Che altro, il portavoce di Hillary Clinton ha detto a un inglese colorito. Sì, l'hanno un po' preso in giro. Vabbè, questo è un classico. Del resto, quando Berlusconi andò, com'è che disse? È un classico che dovrebbe smettere di essere un classico, essendo noi in Europa, che i nostri politici sappiano parlare in sì. maniera decente, anche un po' più che decente, l'inglese non sarebbe però, mai... Però no, purtroppo è così, no, è un perché classico. Lo dico, perché poi è anche difficile chiedere come mai l'Europa nei nostri confronti, e se non parli la lingua quella che gli altri capiscono, diventa difficile portare avanti le tue istanze. Comunque Lorella, non era lui il personaggio, non era Matteo Renzi. Ne abbiamo non approfittato per parlare un po' di inglese, Renzi, Europa e l'inglese dei nostri politici. Grazie mille. Grazie. 800 24 00 24. Personaggio, abbiamo detto, ripetiamo l'indizio, famoso in tutto il mondo. C'è una notizia questa settimana che lo riguarda. Manuel da Napoli. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Allora, per il personaggio. Bene. Ci provo, anche se con un indizio un po' complicato. Eh sì. Comunque penso sia Mario Draghi. Mm-hmm. Perché questa settimana è stato protagonista di un simpatico episodio, cioè è stato aggredito da questa ragazza mentre parlava. Sì, sì, sì, sì, si è spaventato moltissimo, ma sfido sì, chiunque a non spaventarsi. Se ti voglio arrivare addosso uno così, sì, sì. Beh, però lui è Draghi, è Davide contro Draghi, direi. No, perché sono queste prime immagini simpatici, fa delle espressioni incredibili, però fortunatamente è stata una cosa senza... Sì, sì, è finita benissimo. La grazie Manuel, però non era lui. Il personaggio non era lui, però siamo contenti, così abbiamo parlato anche dell'assalto a Mario Draghi. Dunque, vabbè, un indizio lo aggiungiamo, ma non adesso, fra poco. Manuele da Varese, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. No, su Renzi dico una cosa veloce, sarebbe meglio che l'inglese non lo parlasse proprio. Dopo la figuraccia dell'anno scorso a Firenze, che ha fatto uno show che ha riempito poi i video su YouTube delle sue parodie, ci siamo divertiti moltissimo. Imbarazzante, sì. Ma questo era l'inglese scritto, quindi stiamo migliorando. Migliorando, sì, sì. Sta migliorando. Comunque, poi chiamavo, ci sarà il tema scelta. Prego. Grazie. Chiamavo sul tema Expo, ecco, che quello dell'acqua mancante sarebbe l'ultimo, oltre che l'ennesimo problema. Perché io sono Expo obiettivo, ecco, come dicevate, né ottimista né pessimista. Perché l'elenco è lungo delle figuracce che stiamo per fare. Che dovremmo esserlo tutti, perlomeno obiettivo Expo, sì, se no almeno. Sì, anche per riuscire ad arrivare un po' più preparati di quanto lo siamo finora, ecco. Il problema è che già dire vie d'acqua è un po' un eufemismo, perché è stato molto ridimensionato il progetto. Sì, sì, sì. Doveva sì, essere sì. Un vero e proprio naviglio, secondo i progetti iniziali che partisse da Milano. A un certo punto il progetto sembrava addirittura che fosse naufragato a proposito d'acqua, poi è stato recuperato in una forma diciamo di compromesso, ridimensionata, quindi questo diciamo è il progresso. Poi adesso arriviamo, forse scopriamo. Quella non è nemmeno una brutta notizia, in realtà, che non ci sia più i corsi d'acqua abbondanti, visto che c'è un consumo troppo alto d'acqua, però a quanto pare servono comunque 3 metri cubi d'acqua al secondo senza i corsi d'acqua. Però dovevamo partire delle crociere dal Lago Maggiore attraverso il Ticino e raggiungere Milano, la Darsena, e devono tra l'altro inaugurare prossimamente una chiusa nuova che hanno, quella è in tempo, ecco, di realizzazione. Però mancano anche le piste ciclabili, le promesse piste ciclabili sono comparse adesso in Corso Empione, in Piazza Firenze, che dovevano essere riqualificate, il comune non l'ha fatto, sì, i lavori. Tocca comprarsi delle canoe. Sono comparsi i cartelli su come raggiungere il sito Expo con il logo della bicicletta, però non c'è la pista ciclabile. È abbastanza imbarazzante. Sì, è vero che diciamo tutte le opere collaterali che dovevano essere realizzate anche per quanto riguarda la viabilità in tempo per l'Expo sono un po' in ritardo, però certo che se scopriamo che il sito di Expo rischia di rimanere a secco d'acqua, non accadrà, perché poi ci saranno deviazioni di sicuramente di canali, di corsi d'acqua, perché questo non potrà accadere, però hai sentito, a rischio che restino a secco invece gli agricoltori della più grande Isaia d'Europa, che è in Piemonte. Anche perché vorrei ricordarti che non accada neanche questo. Grazie. Adesso vorrei ricordarti che il sito di Expo è anche casa nostra, quindi rischiamo di rimanere senza acqua nelle nostre case. Abbiamo un'altra ascoltatrice da fare al volo prima del traffico. Lina da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica. Altrettanto. Io telefonavo sì per il personaggio. Sì. Avevo pensato Obama. Sì. Perché? Vabbè. Ma un po' ironicamente, ovviamente, parlando, per la credibilità che ha ridato un po' a Renzi per la sua politica qui in Italia. Beh, è sicuramente conosciuto tutto il mondo, la notizia per noi c'è, perché è Renzi che è andato a trovarlo, però purtroppo non era il personaggio che noi abbiamo scelto. Non era lui, grazie Lina. Grazie mille. Ma che facciamo, lo aggiungiamo un indizio adesso, così entriamo a gamba tesa? Forse sì. Ma sì, dai. Siamo più buoni del solito, in genere arriviamo un pochino più lunghi, invece adesso vai. Aggiungo il secondo indizio, che è: ha reagito all'attacco il nostro personaggio. Quindi il nostro personaggio è conosciuto in tutto il mondo, questo era il nostro primo indizio. Il nostro secondo indizio è: ha reagito all'attacco. Vai, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Give me your, give me your, give me your attention, baby. Baby, I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. E adesso l'incredibile, ma veramente incredibile, storia del signor Faggiano, Luciano Faggiano da Lecce, che ha scoperto un tesoro sotto casa sua, sotto il suo ristorante praticamente, l'ha portato alla luce ed è finito in prima pagina sul New York Times, perché di fatto ha aperto un museo e ha fatto tutto da solo. Signor Luciano? Sì, sono io, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica. Grazie, e complimenti intanto, poi adesso ci racconterà tutto. Quando è che è finito su New York Times? Perché poi spesso queste notizie arrivano prima all'estero che sui quotidiani nazionali italiani. È vero. E il 15 di questo mese, la settimana scorsa, effettivamente il New York Times mi ha dedicato metà della prima pagina, diciamo, ecco, mi ha messo in risalto. Complimenti. In tutto il mondo. Grazie. E cosa hanno detto? Che parole hanno usato? Niente, che hanno raccontato un po' la storia mia, perché è venuto un giornalista la settimana prima, ha visitato il mio museo. Gli è piaciuto tantissimo perché ha vissuto. Ma cosa ha detto? Un eroe? Che lei è un eroe, che è un imprenditore, che è una. Vabbè, mo non esageriamo. Ma raccontiamo la storia che è bellissima. Niente, io nel 2002 avevo questa proprietà al centro storico di Lecce. Tenete presente che Lecce è una bellissima città, Lo sappiamo. Io avevo deciso di questo immobile di trasformarlo, di aprire una trattoria. Sì. Perché io ho sempre fatto il cuoco, i figli si erano fatti grandi, allora avevo deciso di aprire una trattoria. Niente, nel restaurare casa mia, perché io l'avevo comprata nell'84 questa casa, e avevo già trasformato, sai, al locale commerciale per aprire, però non andava bene la fogna all'inizio. Io stesso ho aperto, perché ho chiamato i primi maestri, e poi alla fine io stesso ho aperto, diciamo, perché avevo capito che il tubo della fogna, il tubo centrale, ci stava creando problemi. Niente, andavo alla ricerca del tubo della fogna, io ero arrivato a un metro e mezzo, mi hanno bloccato i lavori perché era una casa insignificante, non era vincolata, però io non sapevo che avevano fatto una legge di 2 mesi prima che nei centri storici, anche che è una casa insignificante, non vincolata, comunque dopo 50 centimetri non si può andare giù, se non con la presenza della sovrintendenza. Io sinceramente non lo sapevo, io andavo bello alla ricerca del tubo della fogna, anche perché mi volevo spiegare. Meno male che non lo sapeva, perché è andato oltre. E che cosa ha trovato a un certo punto? Niente, andando oltre, seguendo sempre il tubo della fogna, niente, è uscito un po' di tutto, quello che nessuno si può immaginare parlando di una fogna. Abbiamo trovato un granaio di epoca messapica. I messapi è il primo popolo che ha abitato qui. Un granaio, cioè le si è aperto, come dire, un... Piano piano abbiamo pulito e abbiamo trovato questo granaio, reperti, delle gallerie di fuga, perché noi abbiamo avuto il problema dei turchi sottoterra, noi sotto Lecce è tutto, è una città, c'è un'altra città diciamo sepolta che piano piano sta uscendo alla luce. Diciamo. Ma quanto avete scavato in profondità? Noi in alcune parti abbiamo scavato fino a 10 metri, perché poi abbiamo trovato delle Perché mi faccio dire una cosa, perché cioè, siete partiti cercando di risolvere il problema dell'umidità sotto il vostro ristorante, certo, seguendo il tubo della fogna, poi però appunto avete capito che stava succedendo qualcos'altro e a quel punto è cominciato tutto, mi faccio dire una cosa, la dico io per gli ascoltatori, avete capito che era qualche cosa di grande, di importante, avete cominciato a chiedere permessi, autorizzazioni, è iniziato tutto un iter, e poi avete cominciato a scavare voi stessi, consapevoli che avevate trovato un vero e proprio tesoro. È questo che è successo, no? Sì, più o meno è andata così. Sì, effettivamente, quando noi, ripeto, per sostituire il tubo si è trovato un granaio, si è trovata una tomba, si sono trovate delle gallerie, allora abbiamo deciso di allargare il raggio, ho smantellato l'intero immobile dove abbiamo trovato, diciamo, delle spanze, altre tombe. Insomma, tanto che adesso lei ha aperto un vero e proprio museo con tanto di biglietto d'ingresso, 3 euro. Certo, ma anche perché la trattoria non l'ho potuta più fare. Nel senso che smantellato l'immobile vuol dire che ha buttato giù la casa? Sì, effettivamente è così. Ah, questo non l'avevo... mi sembra... No, niente, siamo andati giù, ecco, anche perché, ripeto, nei secoli ognuno ha messo del suo, noi diciamo abbiamo tolto quello che hanno lasciato i messapi, quello che hanno lasciato i romani, perché ognuno ha lasciato il suo qualcosa. Però diciamo, ecco, quello che non le ha lasciato niente è il Ministero dei Beni Culturali, che non le ha dato una mano. Anzi, a quel che ho capito, a me sta cosa ha colpito moltissimo. Cioè, mentre lei scavava, recuperava, tirava fuori, è venuto fuori di tutto, c'era uno della sovrintendenza che portava via, perché è roba dello Stato. Però nessuno le ha dato una mano o le ha dato una lira per fare questi scavi. O ho capito male? No, effettivamente l'ho dovuto fare tutto a spese mie, però mi hanno detto, essendo un privato, è così che va. Lo Stato ha diritto, diciamo, dopo 50 centimetri. Ma questo è anche comprensibile, magari sarebbe più comprensibile che le avessi dato una mano, però lei però, non si è scoraggiato, è andato avanti. Sono andato avanti, io ho tre figli, loro scavavano, siamo andati avanti 7 anni di scavi, però loro scavavano, io con una Renault 4, con una vecchia macchina portavo via il materiale ogni giorno, che, ecco, che è una classica macchina dei messapi, direi, la Renault 4 ormai. Eh sì, l'epoca è la stessa. Senta, ma adesso questo museo che avete aperto, che lei in un'intervista ha detto piace molto agli stranieri perché cercano cose più antiche, certo, ancora delle chiese, sì, eccetera eccetera, sì, le rende quanto si aspettava che le rendesse il ristorante, o alla fine no, tanto è vero, io ho dovuto comprare un bar vicino al museo, ho dovuto aprire un bar, ho comprato un'attività proprio per poter andare avanti, perché ho capito subito che il museo non avrei mai, cioè, a me, ma lei quanto ha speso per fare questo lavoro? Ha fatto un conto? Sì, di scavi, tra scavi e restauro avrò speso sui 300.000 euro, e aspetta, io ho fatto tutto io in economia, e ho fatto un mutuo finché vivrò. Ma il ministero in pratica aspetta a bordo campo nel momento che lei ha scavato delle cose, dice perfetto, grazie mio, sulla spalla. E mai invece si mette a dire, siccome questo è diventato un sito archeologico, scaviamo anche noi e portiamo questi oggetti nel museo di Lecce o dove sono stati portati, giusto? Sarebbe bello se fosse così, ma comunque non è facile, io non ne capivo proprio niente, dai, poi io di archeologia, di leggi, di tutta questa burocrazia mi ero impantanato da solo, non sapevo più che cosa immagino fare. Che non è stato facile uscirne, però lei adesso a Lecce è un po' un eroe, cioè non dico un eroe, però insomma si è conquistato una certa fama, credo, tra i suoi concittadini. Onestamente da una settimana in qua, dopo essere stato in prima pagina del New York Times, almeno questo. Noi la ringraziamo per essere stato con veramente noi, Luciano Faggiano, insomma, andate a visitare il museo Faggiano a Lecce, bisogna farlo assolutamente. 800 24 00 24, torniamo dopo il giornale radio e avremo in studio con noi Bianco, il cantautore torinese, tutto da scoprire, da ascoltare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le stelle di giorno non dormono, 24 ore lavorano, arriva il sole e scappano, dietro le quinte piangono, da mamma notte tornano, bambine felici ritorno, poeti e pittori le svendono, e vecchie puttane ne sparlano. E tornando a casa a piedi fumo l'ultima, con lo sguardo fisso in aria per volare via di qua. Tu mi fermi con la mano che sa di mandorla e mi dici sai che c'è, io con te un figlio lo farei. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Le stelle di giorno non dormono, 24 ore lavorano, arriva il sole, esplodono, dietro le quinte piangono, da mamma notte tornano. bimbe felici ridono. Poeti e pittori le sognano. E luna e mirate la guardano. E tornando a casa a piedi fumo l'ultima, con lo sguardo fisso in aria per volare via di qua. Tu mi fermi con la mano che sa di mandorla e mi dici sai che c'è, io con te un figlio lo farei. Oh oh oh oh oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Bianco, in studio con noi le stelle di giorno dall'album Guardare per aria. Ciao Bianco, benvenuto. Ciao, grazie mille. Benvenuto, è bellissimo, mi piace tantissimo quando abbiamo i musicisti in studio. È molto bello. Mi innamoro. Bianco Frontorino, l'ultimo album, abbiamo detto appena uscito, Guardare per aria, sarà in studio con noi fino alle 11, sentiremo delle altre canzoni. Bianco, insomma, a me piacerà parlare in questa intervista anche della scuola torinese, di musicisti, Subsonica, insomma, per non citare Paolo Conte. Ma tu come ami definirti? Paolo Conte è genovese, però. No, è di Asti. Ah, vedi? Poi c'è Gianmaria Testa. Ho fatto lo stesso errore di Toti, direi. Non mi candiderò governatore della Liguria. Perché non sai la geografia. Esatto. Come ami definirti? Un cantautore, un cantante, un musicista? Ma forse cantautore è la definizione giusta, perché appunto canto e suono le cose che scrivo e quindi... Quindi ci sono ancora i cantautori, possiamo stare tranquilli. Io li ho adorati sempre, li adoro, vi ascolto, però... Ce ne sono tantissimi, tra l'altro, in questo momento, sì, sempre di più. Però prima Bianco mi ha confessato, mi ha detto: sai, la mattina cantare è molto difficile. Io ho detto che è un po' una cattiveria che facciamo Alessio ed io di chiamare dei rocker, svegliarli molto presto la domenica, come per dire: noi siamo qua tutte le domeniche, e voi perché non venite a cantare? Ma pensa quindi che è anche un po' un rocker, era per dire questo. Dopo che abbiamo portato in studio i 99 Posse, che avevano fatto il concerto al Centro Sociale la sera prima e si sono presentati alle 9:30. Ma loro sono arrivati lunghi, però, secondo me sono arrivati lunghi dalla serata proprio. Avevano ancora delle birrette in mano. Ancora una cosa Bianco, poi andiamo avanti anche con i nostri ascoltatori, lo dico subito: 800 24 00 24, cerchiamo il personaggio della settimana e abbiamo in palio il nostro premio, il weekend messo a disposizione dall'Associazione Comuni Virtuosi tra poco. Come nascono però le tue canzoni? Tu lavori da solo, hai dei soci, hai dei collaboratori, hai una band? Allora dal vivo sì, c'è una band, e poi la prima fase, vabbè, me la vivo da solo, chiuso in cameretta, e poi mi faccio dare una mano in questo caso da Riccardo Paravicini, che è stato il produttore del disco, e dai musicisti che riesco a raccogliere nei mesi di tour. Raccolgo musicisti in giro per l'Italia, poi quando devo andare in studio li richiamo per... E più che un tour è una raccolta musicisti. Esatto. Ma quindi le scrivi tu le canzoni? Sì. Peccato, perché il mio sogno è scrivere canzoni, quindi speravo se vuoi fine. Proporti Bianco, sì, forse assolutamente. Adesso vediamo, mi sembra più bravo lui, quindi ti piace per il momento ascolto le cover, le canzoni degli altri? Non sono tanto bravo a farlo, cioè mi piacerebbe esserne capace, ma non ho mai approfondito questa già cosa. Che hai detto tour, hai un tour, ci sono delle date, voglio dire qualcosa così. Mercoledì è a Milano, Bianco, allo Ibo alle 10 di sera. Questo so perché sono di Milano, però prego se vuoi dire altri appuntamenti molto volentieri. Poi giovedì e venerdì a Roma, giovedì a Roma in un locale che si chiama Nacosetta, e invece venerdì siamo in un diciamo con un concerto privato in uno studio di Niccolò Fabi, quella famiglia lì. Cioè, non ancora gli stadi, possiamo dirlo, senza offendere nessun locale, né lo Ibo né una cosetta né lo studio. Arriveranno. Esatto, no, ma infatti perché abbiamo poi un cantautore negli stadi, insomma, può essere un punto d'arrivo, ma... È più facile che vada una cantante nella nazionale cantanti, tu dici, un cantautore nello stadio, è vero, hai ragione. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, ne facciamo almeno uno prima del traffico, chiede da Peter Bescapè in regia, sì, mi dà il via libera, facciamo Simona da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Su cosa voleva intervenire Simona? Io volevo dare la risposta. Al personaggio, benissimo, sì. Ma secondo me è il Papa. Ecco. Il Papa, che arriva più o meno tutte le domeniche. Sì, il Papa, insieme a Farinetti. Sono il Papa e Oscar Farinetti, che tutte le settimane come personaggio. Come mai il Papa Motivo? Questa settimana? Perché ha risposto all'attacco, ho pensato alla storia degli armeni, della Turchia. Bravissima, degli armeni, è vero. Era un indizio sviante perfetto, perché è il momento trappolone. Si può fare. Non... Purtroppo non era questo il personaggio, ma siamo contenti, almeno abbiamo raccontato anche la notizia. Grazie comunque. Grazie Simona. Mille. Allora, ripetiamo gli indizi per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Un personaggio famoso in tutto il mondo che ha reagito, secondo indizio, ad un attacco. Abbiamo Donatella che ci chiama dalla provincia di Lodi, poi andiamo sul traffico. Vai, Donatella, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ma Fernando Alonso? Beh, anche qui, qual è stato l'attacco? C'è stato, eh? Beh, sì. Dillo tu, Donatella. Fernando Alonso. No, perché... il motivo, sì. Dici la notizia. Di rispondere, di rilasciare interviste a Sky perché... è stato attaccato, tra virgolette. C'è stato un tweet di Paola Saluzzi, la conduttrice di Sky TG24. Sì, giustamente, insomma, non è nata una querelle, stava per saltare l'accordo tra Sky e la Formula 1 e la Ferrari, un casino, un pieno. Poi hanno risolto, hanno fatto la pace. Però... ma la notizia, cioè, però la notizia c'è e la ricordiamo, però non hai vinto il weekend dei comuni virtuosi. Grazie Donatella. Grazie comunque di aver chiamato, buona domenica. Ok, andiamo sul traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Cari ascoltatori, Si può fare, siamo partiti questa mattina, faccio un piccolo riepilogo dalla vicenda dell'Expo e della possibilità, la denuncia fatta dal vicepresidente del Parco del Ticino sul fatto che Expo rischia di partire senza acqua o di rimanere a secco d'acqua durante i mesi estivi per una querela che riguarda Italia e Svizzera. Attendiamo un intervento del ministro dell'ambiente Galletti. Poi abbiamo sentito la storia di Luciano Faggiano e del suo museo, straordinaria storia del museo di Faggiano. Bellissima, a Lecce, sì. Scoperto tutto da lui. 800 24 00 24. Abbiamo ancora un ascoltatore però che credo voglia intervenire sul personaggio della settimana. Maurizio da Modena. Pronto? Eccolo. Buongiorno. Buongiorno, volevo partecipare al quiz. Sì. Prego. Chi è il personaggio? Secondo me il personaggio è Hillary Clinton. Benissimo. Si è candidata alla presidenza degli Stati Uniti, sì. È un personaggio che ha girato il mondo perché, se non sbaglio, era ministro degli esteri del governo di Obama. Sì, la conosciamo tutti perlomeno come moglie di Clinton nel momento in cui Clinton si occupava d'altro. E la notizia della settimana era che si è candidata, ha sciolto la riserva, sì. Esatto, secondo me poi come attacco, diciamo, ha avuto molti attacchi immediati, c'è anche la storia di suo marito con... Tutto bellissimo. È tutto corretto, ma il personaggio non è lui, ci spiace. Non è lei. Grazie Maurizio. Non è lei, chiedo scusa. Voglio solamente aggiungere che abbiamo in studio con noi Bianco, grande cantautore, e quindi vi consiglio che adesso sentiamo, tra l'altro. Esatto, vi consiglio di telefonare per indovinare, perché ci ha già proposto Bianco, ha detto "Ma non mi potete dire il nome del personaggio della settimana che faccio chiamare mia moglie che è un weekend, è sempre un weekend". Però era una battuta, È una battuta, però io se fossi in voi si amerei rapidamente, perché sennò Bianco sta leggendo i nostri foglietti e sta cercando di scoprire qual è il personaggio, ma ce l'abbiamo solo nella nostra testa, quindi devi spaccarmela con una mannaia. Sai, con la sobrietà piemontese, sabauda, poteva anche non sembrare una battuta, ma era una battuta. Ma secondo me non lo era, comunque. Allora, 800 24 00 24, cari ascoltatori, siamo generosi, regaliamo un altro indizio per il personaggio della settimana. Qua stiamo su un gioco di parole, direi. Comunque l'indizio è questo: se va in America mette il cappello. Se va in America, il personaggio mette il cappello. È un indizio scherzoso, ironico, che se vi viene in mente è molto preciso. Siete arrivati. 800 24 00 24. Adesso sentiamo un'altra canzone di Bianco. Direi che sentiamo Volume, vero? Esatto. Vai. Anche nei giorni più belli, neanche capaci a godere della vita, di questa vita, da leccarsi le dita. Ma allora c'è qualcosa che proprio non funziona, che arriva da lontano, ci prende per la mano, ci porta verso il buio, ci fa sentire ciechi e ci terrorizza, soffiandoci sul collo, come quando da bambino toccava a me contare, è la fretta di arrivare a 100, il buio che mordeva, le zanzare sulla pelle ed il cuore sulla lingua, la saliva che sa di paura, adesso non avrei più quella fretta, perché adesso ho capito e odio chi è nascosto, ma adoro ritrovarmi. Tua madre e dirle che stai bene, che non ti manca niente, perché tu non hai niente, come diceva quel ragazzo friulano. Puoi stringere il manubrio e pedalare svelto per essere sicuro, seminare il tempo, ma ti sorpassa e ti senti un po' vecchio. Ma allora c'è qualcosa che proprio non funziona, che arriva da lontano, ci prende per la mano, ci porta verso il buio, ci fa sentire ciechi, ci terrorizza soffiandoci sul collo, come quando da bambino toccava a me contare, è la fretta di arrivare a 100, il buio che mordeva, le zanzare sulla pelle ed il cuore sulla lingua, la saliva che sa di paura, adesso non avrei più quella fretta. Bianco con noi in studio, Volume, questa era la canzone dall'ultimo disco, sempre Guardare per aria. Amo, complimenti, grazie. Moltissimo questa canzone, sarà che ha dei temi affini con Fossi in te insisterei, che è il libro che ho appena scritto, ma Adoro ritrovarmi mi piace moltissimo, odio chi è nascosto, Adoro ritrovarmi, quindi mi è veramente affine. Bianco, io la domanda te la devo fare però, la scuola cantautoriale, musicale torinese, insomma i nomi basta pensare, Subsonica, Paolo Conte, abbiamo detto di Asti, Maria Testa, Cuneo, un cantante, un cantautore come te, ma poi ci sono i gruppi, salutiamo, Statuto, Mau Mau, eccetera. Ti senti affine a questo mondo? Ti senti parte di questa Sì, cosa, perché no? Secondo me Torino, vabbè, come penso tutte le altre città, però io vivendo lì me ne rendo conto per quella cosa lì, è una di quelle città che è molto ricca di elementi che poi fanno assomigliare un pochino a tutti quelli che scrivono o che suonano, perché ha delle cose talmente precise, tipo secondo me anche solo proprio ambientali, di paesaggio, che quindi secondo me le persone si assomigliano molto tra di loro a Torino, cioè mi sembra che sia proprio un paese. Senti, come invece le tue canzoni, come nascono i testi? Ti ispiri a quello che alla cronaca, o come fanno alcuni cantautori, ai giornali che leggi, oppure cerchi proprio dentro di te, chiudi gli occhi e sogni delle cose? Sì, io cerco di fotografare un po' quello che mi succede o che potenzialmente potrebbe succedermi in quel periodo della vita in cui scrivo le canzoni. E quindi in questo caso, appunto, io ho 30 anni, ho scritto questo disco pochi mesi fa, e quindi non ho fatto altro che veramente guardarmi intorno e descrivere quello che stavo vedendo. Adesso Bianco resta con noi in studio, sentiremo almeno un'altra canzone o due tra poco. Tra poco invece parliamo di una storia, la storia di un coetaneo tuo, Bianco, che è un'altra bella storia, la storia di un'impresa però, un'impresa di successo. Lo possiamo salutare il nostro ospite, poi sentiamo e così sveliamo anche il motivo per cui sentiremo questa introduzione musicale. Luca Gnecchi Ruscone, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Fondatore di LGR, lasciamo in sospeso, è un'azienda. Sentiamo intanto Peter, vai. Il tema, anzi no, il trailer, il sì. Tema di Mission Impossible. Direi che mai introduzione fu più azzeccata, per un sacco di motivi, per la Mission Impossibile. Eh sì, siamo a che edizione siamo arrivati di Mission Impossible? Numero 5? Direi di sì. Siamo alla numero 5. Sì, però Luca non fa quella l'attore, che ti riguarda, regista. Direi che è la numero 5. Luca ha un'azienda di occhiali, ha aperto un'azienda di occhiali. Quanti anni hai, Luca? 33 anni, è un ragazzo, è coetaneo di Bianco. Un'età importante, così, un'età importante, 33, ci ricorda qualcosa. E gli occhiali che tu, i tuoi collaboratori, la tua azienda fabbricate, li utilizza chi? Dicelo tu, se era capito. Tom Cruise nel nuovo film Mission Impossible 5 Rogue Nation. Eccolo qua, tac, un bello spot per la tua azienda, sì. LGR, complimenti. Però quello è un po' la ciliegina, in realtà sì. La storia parte prima e certo. I tuoi occhiali li usano un sacco di altre persone, sono occhiali artigianali, sì. Raccontaci la storia. Sì, intanto ci tengo a dire che questa cosa di Mission Impossible è successa per caso, anche perché sì. Ci sono dei budget in gioco che non ci possiamo neanche lontanamente non ci possiamo neanche avvicinare. A non ce li hai nemmeno per tutta la troupe gli occhiali, dovendoli fare artigianalmente. Ma neanche in tutta la vita. No, è una storia che comincia in Africa, in dei magazzini militari italiani, quando gli italiani erano in Eritrea e in Etiopia, dove io nel 2002 scopro questi occhiali grazie a mio nonno che ha vissuto lì molti anni, anche mia mamma è nata lì, mio zio, e mio nonno faceva il fotografo per l'Istituto Luce e cominciò a importare materiale per la fotografia, poi degli occhiali, delle montature, e io mi stavo laureando all'università e sono andato e ho accompagnato il nonno ad Asmara e ho trovato in questi magazzini questi occhiali bellissimi, autentici, e ne ho presi un po' e li ho portati in Italia e sono diventati poi una fonte di ispirazione per te, anche sì, di reddito, direi. Quella è diventata la base dell'ispirazione che adesso mi porta avanti e porta avanti l'azienda, ecco. Però ci siamo allontanati molto, ci siamo insomma sì. Distaccati parecchio da quei modelli. Ecco, cos'è che caratterizza, possiamo dirlo, insomma, non è che vogliamo fare pubblicità, però visto che hanno avuto successo, visto che la storia che dà origine alla LGR è una storia che ha a che fare appunto con tuo nonno, con l'Africa, con un passato, eccetera eccetera, che cosa caratterizza questi occhiali in particolare? Beh, erano fatti per durare tutta la vita, come un po' le cose prima, cioè prima quando costruivano le cose, le macchine, le scarpe, gli occhiali, sì, è vero, li facevano è vero. Perché dovevano durare il più a lungo possibile. Oggi c'è l'obsolescenza programmata. Poi si sono accorti che così facendo non si vendeva più niente dopo un po', quindi o si inventavano cose nuove oppure bisognava renderle distruttibili. E quindi? E quindi sono andato alla ricerca di artigiani in Italia che avevano ancora quelle macchine che producevano quelle cose quegli lì. Occhiali e con certi spessori, con delle lenti in vetro invece che in plastica. Abbiamo cominciato una piccolissima produzione per me, per i miei amici, per gli amici dei miei genitori, e poi da lì si è espansa. Hai per fortuna tutta una famiglia di miopi. sì, ecco, no, volevamo sono degli stati, occhiali da sole belli. Sì, sono state le prime cavie probabilmente che hanno provato, però ecco, questa tua intuizione in effetti poi ha avuto successo, perché questa diciamo idea imprenditoriale funziona, ha preso piede fino appunto ad arrivare a Tom Cruise, ma prima di arrivare a Tom Cruise hai messo su un'azienda, un'impresa, come va? Quanti siete adesso a lavorare? Adesso siamo in 12. E è stato, io non l'ho mai pianificata, vado a braccio di giorno in giorno, anche se oggi che sta diventando tutto più grande anche di impegni finanziariamente, bisogna organizzarsi, è veramente una sfida quotidiana, è veramente difficile. Difficile, però ci sta venendo bene, sta venendo facile, perché l'occhiale questi piacciono e si vendono. E quest'idea sta acchiappando, come si dice. Ma quanti ne producete di questi occhiali per avere un ordine di grandezza? No, perché ne produciamo circa 30.000, ecco, quest'anno spero di farne 30.000. Carlo, secondo me, è interessato, perché anch'io porto gli occhiali. Io sì, assolutamente. Quindi chissà, magari. No, pensavo di non farcela, di doverlo prenotare e me lo portavi sulla tomba. Per questo volevo capire se c'era della possibilità. Beh, ti può mettere in coda dopo Tom Cruise. Certo, io prendo il numerino, ho il 30.001, quindi è perfetto. Senti, Luca, com'è invece fare impresa in Italia? Perché insomma, questo è un tema naturalmente di cui si riempiono i giornali. E non puoi citare il titolo come risposta. Beh, è molto difficile, perché lo sappiamo tutti, insomma, è molto impegnativo da tutti i punti di vista. Però io, quando ho cominciato, non avevo nessuna alternativa, perché volevo cominciare dagli artigiani, partiva tutto lì, dalle mani di un uomo che produceva un'asta, un frontale, e poi mi montava la lente. In Italia c'era, non avevo una lira per cominciare, e quindi chi mi diceva vai in Cina, vai in quelle fabbriche, o vai, ma lì servono quantità, servono idee molto molto chiare, servono dei business plan a 2-3 anni, cose che io non avevo. Invece piano piano, sedendomi con delle persone, guardandosi negli occhi, parlando normalmente così, vengono fuori le idee, viene fuori un prodotto, e piano piano si crea. Quindi è un po' un chilometro zero, un slow, è un modo di fare le cose piano, che però poi sono molto più solide e forti e portano lontano, spero. Quanti anni durano i tuoi occhiali? Non so se te lo possiamo chiedere, perché li produci da poco, quindi, però l'obiettivo è che durino molto? L'obiettivo è di entrare nelle coscienze di più persone possibili, che sappiano che esistono questi occhiali e che esiste soprattutto un modo diverso di fare le cose, di vedere il mondo. E è per questo che il mio sito non l'ho chiamato LGR Sunglasses, ma l'ho chiamato LGR World, perché vuole essere un mondo che spieghi un modo diverso di fare le cose, che non è niente di complicato, di difficile, è solo un attimo più di tornare indietro, di fermarsi un attimo e di pensare, di guardare che abbiamo tantissime belle cose qui intorno a noi in Italia che possiamo prendere. Bene, meraviglioso, ma si può fare, è stupendo. Ma quanto costano questi occhiali? Sì. Costano dai 220 ai anche 500 euro per delle cose molto particolari. Molto prezzi particolari, diciamo abbastanza in linea con quello che è il mercato di occhiali, diciamo, di marca. Infatti, volevo capire, senza andare questo neanche su cose troppo stratosferiche. Complimenti, auguri naturalmente per il futuro, che sarà roseo. Nero, perché hanno occhiali neri, esatto. Complimenti. L'ultima domanda che ti voglio fare, Luca, è questa: che per chi ci sta ascoltando, qualche tuo coetaneo, qualcuno che dice, ma come ha fatto? Tu che studi hai fatto? Il tuo percorso come ti ha portato fin qua? Io ho studiato economia e non ero neanche un un ottimo studente, però, non volevo fare l'università, volevo iniziare a lavorare, però non sapevo dove e come, e quindi mi sono messo a fare l'università, mi sono laureato e poi avevo non sapevo dove lanciarmi e mi sono lanciato... Vabbè, il resto è la storia, l'abbiamo raccontata. Grazie mille, grazie Luca. Mille. Luca Ruscone, fondatore di LGR. Questa era una bella storia. Adesso ci fermiamo invece per una pausa, poi continuiamo a parlare, ad ascoltare Bianco e anche a sentire forse gli ascoltatori, perché dobbiamo indovinarlo. È sto personaggio della settimana. È molto difficile questa settimana. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma sai che bello passeggiare i muri a novembre alle 6 di sera. Nei tuoi occhi è primavera, i tuoi capelli san di mela, canottieri in canottiera, avranno freddo ma chi se ne frega, ma che pensiero è, camminiamo che qui si gela, fai di me ciò che vuoi, tanto io resto, dell'idea che non avrei altro modo di star peggio. Anche se l'acqua sull'asfalto fa rumore, tu suoni piano piano le parole. Capisco molto bene il tuo problema. La partita IVA non va aperta, no, no, no. Massaggi quella sigaretta da mezz'ora. È spenta ma un silenzio la consuma. L'ada del fumo è tutta mia. L'ada del fumo è tutta mia. Fai di me ciò che vuoi. Tanto io resto, dell'idea che non avrei altro modo di star peggio. Bianco, e questa era Mela, una canzone invece dal tuo primo disco, esatto, vero? Sì, la più famosa. È molto bello che dai microfoni di Radio 24 si sia cantato la partita IVA non va aperta. Io lo metterei nel curriculum. Sì. E io ho pensato subito a quello che avevamo sentito prima, alla storia, insomma, di Luca Ruscone e della sua azienda di occhiali, e quindi vedi che i temi ritornano. Che impressione ti ha fatto sentire questo tuo coetaneo, così anche ispirato quasi dal punto di vista filosofico, no? Che però certo, poi ha aperto un'azienda concretissima che dà lavoro a delle persone. Massima stima per persone così. E nel mio piccolo è un po' quello che sto facendo perché appunto 3 anni fa cantavo che la partita IVA non va aperta, mentre circa 6 mesi fa l'ho aperta alla fine. Quindi hai ceduto, hai tradito il tuo pubblico. Purtroppo sì, perché non c'era altro modo, ecco. Senti, ma che ruolo ha, voglio tornare alla musica, che è la tua vita, la tua attività, che ruolo ha la musica secondo te oggi nella vita dei tuoi coetanei? Cioè un ruolo di compagnia, di svago, o anche di ricerca di significato, che è quello che cerchi di far tu, cioè di trovare, come era magari più negli anni 70-80, forse nei cantautori, certo, una guida anche. Tu chiaro, come chiaro la senti? Secondo me, i miei coetanei hanno bisogno di coccole, hanno bisogno di essere coccolati, non dal punto di vista vista appunto di essere mammoni, come diceva, però proprio dal punto di vista di essere comunque gratificati in qualche maniera. E secondo me, almeno quello che vorrei, il ruolo che vorrei dare alla mia musica, che avesse la mia musica, è proprio quello lì, quello di fare del piacere alle persone. Poi nelle mie canzoni appunto più che altro fotografo delle cose, non mi sento di dare delle guide, e quindi mi piacerebbe appunto che le persone ascoltassero la mia musica e venissero coccolate da questa. Ottimismo e pessimismo, insomma, noi ci poniamo un po' con questa idea di cercare il bello del mondo che ci circonda, a volte ci riusciamo, a volte no, con ironia, ma a volte smascheriamo anche chi magari pensa di essere portatore di buone notizie, un po' quello che facciamo tutti i weekend qua a Radio 24. Tu da quale parte senti dipendere fra questi due? Beh, no, sicuramente ottimismo, perché, anche perché non farei quello che sto facendo, cioè, perché comunque è una cosa talmente difficile da riuscire a, appunto, a farla diventare un lavoro vero, che se non sei più che ottimismo, forse ancora, se ci fosse ancora un'altra parola oltre ottimismo, il super ottimismo, esatto. E sarebbe difficile farlo, ecco. Allora, fammi vedere un po', anche perché abbiamo gli ascoltatori, Carlo, non trascuriamoli. No, abbiamo anche un quiz in ballo, vorrei ricordare, che forse per una volta ce la facciamo a tenerci il personaggio anche per settimana prossima. Così risparmiamo sulle idee. Abbiamo la nostra riunione all'alba della domenica. Elisabetta, Mauro e Natale che ci aspettino, perché facciamo prima l'informazione sul traffico, poi torniamo tra poco all'800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Elisabetta che ci chiama da Bari. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutte e due. Eccoci. Grazie. Qua. Volevi giocare a con noi? A tutti e tre. Oggi abbiamo anche Bianco in studio. Sì. Sì. Ah, buongiorno anche a lui. Perfetto. Eccoci. Va bene, Elisabetta, su cosa volevi parlare? Sì. Allora, io ho pensato Berlusconi perché, dico il perché, perché è stato attaccato per quanto riguarda i cagnolini, e poi è noto e conosciuto in tutto il mondo, per me. È lui il personaggio, paff! No, non era lui. Diamo così la risposta. Grazie comunque. Però grazie di aver chiamato. Dobbiamo dare un altro indizio? Aspetta, facciamo prima questi due ascoltatori che hanno già chiamato, altrimenti poi non sanno più, li disorientiamo. Mauro da Grosseto. Eccomi. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Mauro. Buongiorno. Volevo rispondere, secondo me è Putin, Vladimir Putin. Putin, qual è la notizia? 4 ore di risposta in diretta al telefonato degli ascoltatori, in risposta all'Ucraina, ai delitti politici, insomma una bella risposta forte. Ed è sicuramente lui che negli Stati Uniti indosserebbe il cappello, da cowboy. Questa non è affatto male, anche se Mauro... Non è la risposta giusta. Che però, io però grazie. Ce lo vedo arrivare in America col cappello. Sì. Possiamo dire una cosa a questo punto? La voglio dire. Sì, questo cappello, pensatelo in inglese. Questo cappello, che è un'aggiunta all'indizio, e poi vediamo cosa ne viene fuori. Aggiungo qualcosa? No, ma secondo me non lo indovineranno. Vediamo, ma Natale da Pistoia, Natale, poi vediamo. Sì, se buongiorno un altro a tutti, buongiorno. Buona domenica. Buona domenica. A mio avviso, il personaggio sarebbe il presidente della Turchia, Erdogan, che è stato attaccato dal Papa e ha reagito. Famoso in tutto il mondo anche lui, se va in America a mettere il cappello potrebbe essere interpretato un po' come prima per Putin, ma anche in questo caso non è lui. Grazie, ma grazie. È Natale. Sì, in effetti, allora l'aggiunta all'indizio è che, diciamo, la parola cappello, se la pensate in inglese, allora viene fuori un elemento, diciamo, dalla risposta. Questo mi sembra già un bel aiuto. Vogliamo anche dare l'ultimo indizio. Sì, vai, Carlo. Diamo l'ultimo indizio, che è questo. Quello che stiamo cercando ha tanti nomi, ma non è una persona. Quindi azzeriamo probabilmente tutto quello che stavate pensando fino adesso. Trattasi di, se non una persona, di altro di un oggetto. Bianco, ci fai un altro pezzettino di una canzone? Sì. O vogliamo prima invece commentare ancora? No, la storia di Luca l'abbiamo già commentata. Perfetto, un altro pezzo di una canzone. In questo caso ci fai Filo d'erba, che è sempre tratto dall'ultimo disco. Io mi dissolverò come il bianco di un'onda che il tempo non ha di capire come sta. Ma io continuerò a prenderti in mano e portarti lontano da qui, tra cielo e mare o dove vuoi. Dove la tua mente possa ritrovare il sonno, quello buono, quello di cui tu senti il bisogno. E arriverà l'estate, i fiori si apriranno e noi qui in silenzio a guardare le stelle che un po' ci invidieranno, perché poi in fondo sanno che è meglio guardare per aria che a terra. E questo era un passaggio di Filo d'Erba. L'ultimo disco, esatto, di Bianco. Ricordiamo che Bianco mercoledì è a Milano al Loibo alle 22. Io purtroppo vorrei venire a sentirti, ma non ci sarò, perché invece io continuo il mio book tour e io il 22 aprile sarò a Firenze alla Feltrinelli Red alle 18 a presentare Fossi in te io insisterei, e il 21 aprile sarò a Sesto Fiorentino a presentare sempre Fossi in te io insisterei alle 18. E invece io sono sempre qua, io e Peter Bescapè siamo sempre qua a Radio 24, tieni tranquilli, il punto alla base, sì, giusto, se non resta nessuno. Ah, sì. Voi andate tutti in giro, poi che facciamo? Cosa mandiamo in onda? Allora, abbiamo ancora qualche ascoltatore, forse? Stiamo caricando? No, perché stanno arrivando delle altre risposte. L'ultimo indizio che abbiamo dato, lo ripetiamo, è che il nostro personaggio sostanzialmente non è una persona, è un'altra categoria di oggetti, insomma, è una cosa, ecco, così, che ha tanti nomi. Ha tanti, tanti soprannomi, il nome è quello che cerchiamo, forse. Famoso in tutto il mondo, ha reagito a un attacco e se va in America mette il hat. 800 24 00 24, può darsi pure che questa volta non si indovini il personaggio, visto che abbiamo però ve ancora... ne abbiamo dati adesso gli indizi, sì, adesso avete sì. Tutti gli elementi, è quasi fatta. A questo punto chiudiamo allora con Bianco qua in studio con noi. Ci abbiamo il vincitore, forse? Ci abbiamo un'ultima chiamata? Proviamo? Chi c'è in onda? Pronto? Fernando pronto? Da Como. Pronto? Noi ci siamo! Siamo pronti! Sì, buongiorno! Buongiorno! La pizza! Così, è arrivata la pizza! Così, è la fame questa! È l'ora, sono l'ora. Le 11. No, aveva capito che c'era poco tempo e ha detto, dico subito la risposta, giusta! Beh, veramente in zona Cesarini, come si suol Fernando, dire. Fernando, ci vuoi? Adesso ti tocca riepilogare la notizia, così gli ascoltatori che ma distratti guarda, capiscono. Sinceramente, ho acceso la radio 5 minuti sì. Fa, poi quando lei, quando tu, quando vuoi, io sono un assiduo sì. Ascoltatore di Radio 24... in macchina sempre a casa con la zanzara sì. La sera che sì. È fantastica e poi Barisoni tutto va bene. Ho capito dacci che, la notizia no, ho capito che lui la notizia non la sa, ha sentito hat secondo me e ha capito sì, vero? Esatto. Perché volevamo essere generosi, hai diciamo fregato un sacco di altri ascoltatori che invece ci seguono la stamattina, perché gli indizi erano molto precisi, perché se va negli Stati Uniti mette il cappello, ovvero Pizza Hut, ma la reazione della pizza è stato lo spot di McDonald's con il bambino che dentro in una pizzeria dice io preferisco McDonald's, la risposta dei pizzaioli è stata straordinaria. L'abbiamo di loro in coda invece sì. Da McDonald's il ragazzino che dice io voglio la pizza, ma sta roba fa schifo, anzi dice camma fa che sta schifezza, dice proprio. È bellissimo. E allora abbiamo deciso che era la pizza il nostro personaggio. Bene, abbiamo dato anche il premio all'ascoltatore, incredibile, non me l'aspettavo, ammetto. Cosa, se abbiamo 20 secondi? No, non facciamo in tempo a fare un'altra canzone. Niente, non facciamo in tempo a fare un'altra canzone, quindi... Ma anche perché devono comprarsi il disco, ne abbiamo fatte tre, se no sì, uno certo. Se uno si registra, se no nel podcast c'è tutto il disco di Bianco e conviene scaricarsi il podcast, che vi ricordiamo che lo trovate sul sito di Radio 24 o sulla nostra pagina di Facebook, si può fare trattino Radio 24, oppure potete scriverci al nostro account Twitter @si può fare 24. Grazie Bianco per essere stato con noi. Guardare per aria è il titolo del disco. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento come sempre naturalmente al nostro autore Andrea Piana, ma anche a Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta anche quest'oggi, questa domenica, Peter Bescapè in regia. Buona domenica da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizi. Ciao, a sabato prossimo. Ciao.